Mix 24 di Giovanni Minoli. I faccia a faccia della storia. Oggi è Mix 24 per la serie dei faccia a faccia della storia, curati da Sara Tardelli, un'intervista con Jane Fonda. Per incontrarla, fare questo faccia a faccia, sono andato su un bellissimo set in Messico dove girava una grande appassionata del cinema americano che ha spaziato da Barbarella alla militanza contro la guerra in Vietnam. Jane Fonda, fare del film impegnato in America rende di nuovo oppure è un lusso per ricchi? Ma i miei film rendono, o perlomeno cerco di assicurarmene, perché se c'è qualcosa che è importante e se lo si vuole dire, bisogna farlo in modo che tanta gente possa rendersene conto. Non mi interessano i piccoli film, anche se mi interessano i ruoli piccoli, come Tornando a casa o Sindrome cinese, Rollover. Ho cercato storie che fossero importanti, ma anche di effetto. Popolari e ci sono riuscite. E lei lo fa per piacere, per senso del dovere oppure per guadagnarci? Sono piuttosto famosa, non sono ricchissima, però penso comunque che sia molto difficile fare questo tipo di film. Questo, ad esempio, è in cantiere da 8 anni. Ve ne sono altri che sono lì da 10, 12. Ci vuole tanto tempo. Lo si può fare solo se lo si desidera veramente. Ciò significa che si presta attenzione al denaro e al fatto di apparire al meglio nei panni della star, ma devi sentire di volere dire qualcosa davvero. E inoltre mi piace creare. Posso smettere di girare film domani, ma mi mancherebbe moltissimo il processo collettivo che comporta il girare dei film, specialmente quando esistono obiettivi comuni. Se si vuole trasmettere qualcosa che noi riteniamo importante. Ma il denaro davvero non conta niente, come ha detto in qualche intervista per lei? No, non è vero, non l'ho mai detto, né lo credo. Se dovessi fare una scelta fra il fare qualcosa che ritengo importante, anche se dovesse comportare una grossa rinuncia, cioè dar via il mio denaro, ottenermelo, rinuncerei al denaro. Non ne sono ossessionata. Però io ho sposato un uomo politico e nella mia vita ho sostenuto molte cose che considero importanti. Quindi io ho capito, riconosco il valore del denaro. Sono stata molto ricca e anche se è difficile da credere, ci sono stati periodi della mia vita in cui avrei rinunciato a qualsiasi cosa. E che cosa conta di più per lei? Il successo, l'amore, la famiglia o l'impegno politico? Oh, è difficile rispondere ed essere sinceri. Io ho raggiunto la fama quando ero molto giovane e anche molto infelice. E non me ne importava. Ora, se non avessi delle solide basi fondate sulla famiglia, la felicità, la sicurezza, ogni cosa perderebbe di significato. Io sento di aver bisogno di un uomo, di un marito, che è lo stesso. Sento di volere che i miei figli siano felici. E non è una cosa facile. E penso che questo sia più importante. Quando i propri genitori muoiono, io ero con mio padre quando è morto, e non sei più tanto giovane, sei obbligato a pensare: come sarò quel giorno sul letto di morte? Come mi sentirò in quel momento? E allora, nel momento in cui si comincia a pensare al fatto che si deve morire, si comincia a capire cosa è veramente importante nella vita. Puoi essere importante, puoi essere ricca e famosa, ma non avere nessuno che ti voglia bene. E allora che cosa è valsa la vita? Jane Fonda, ma c'è qualcosa che ha fatto per avere successo e che non avrebbe mai voluto fare? No. È qualcosa che invece non vorrebbe mai che si dicesse di lei? Ci sono tante cose che hanno detto. Che non ho il senso dell'umorismo. E il suo peggior difetto qual è? Non lo direi mai. È una qualità, una caratteristica, una cosa che lei ama di sé e che invece gli altri non le riconoscono, cioè? Ma veramente credo di avere molte più qualità di quante me ne attribuiscano. Ma si dà un voto migliore come madre o come moglie? Lo stesso. E c'è qualcosa che pensa di aver imparato dai suoi figli? Sì, quando si educano i propri figli ci si accorge di quanto si assomiglia ai propri genitori, anche in quello che di essi non ci piaceva. E qualcosa che invece si rende conto di non essere riuscito a insegnare a loro? Quando i miei figli erano piccoli, specialmente mia figlia, io attraversai un momento di di profonda evoluzione. Quasi una specie di trasformazione da una persona ad un'altra. E io credo che per educare nel modo migliore i propri figli si debba concentrare su di loro tutta la propria attenzione. Devi dedicarti totalmente, al 100%. Non è terribile se non lo si fa, tuttavia la cosa più importante che i genitori possano trasmettere al figlio è il rispetto di se stessi, con la massima attenzione possibile. E questo è quello che penso di non essere riuscita a fare quando erano piccoli. Ma della genfonda Barbarella, che cosa resta nella genfonda di oggi? Sono ancora una donna e ho una bella figura. Mi piacerebbe rifare quel film, penso che reciterei meglio. Mi piaceva il film perché ho trascorso molto tempo in Italia. Mi piaceva Roma. Le mie radici sono italiane, di Genova. Sì, 300 anni fa. Lo sai perché fumo cacciati via? Perché tentammo di rovesciare il governo e allora si fuggì in Olanda. Ecco, ma che cosa o chi ha provocato il passaggio dalla genfonda di Barbarella a quella che incitava alla deserzione i soldati americani da noi? Ci fu un periodo in cui vissi in Francia e la guerra del Vietnam era quasi finita. Non me ne ero mai interessata molto, ne sapevo ben poco, ma dei soldati americani che erano di stanza in Europa mi fermarono, mi parlarono e mi mostrarono delle cose che non avevo capito. Mi mostrarono la portata del movimento esistente negli Stati Uniti. Così cominciai a approfondire il problema e compresi che dovevo fare qualcosa, diventarne parte. E fu la prima volta che mi trovai coinvolta totalmente in un'azione politica. E fu un'esperienza molto importante per me, da diversi punti di vista. E prima di tutto sentii che se fossi morta in quel momento, la mia vita doveva avere un significato oltre a me, la mia carriera, i miei interessi personali. E ho imparato anche tante cose su tante persone diverse fra loro che non avevo mai conosciuto prima. Comunque quella visita da noi le è costata l'accusa di tradimento. Ecco, Hollywood gliel'ha fatta pagare molto cara questa sua posizione. Non è stata proprio Hollywood, perché fondamentalmente le persone che lavorano negli studios sono persone rivedute progressiste e si preoccupavano del fatto che potesse ripetersi un'era maccartista. No, era maggiormente contro le famiglie e gli uomini che vi avevano combattuto. Genfonda, ma oggi rifarebbe tutto come ha fatto allora? Io sono molto orgogliosa del fatto di essermi opposta alla guerra e di essermi messa in prima linea. Tuttavia, ci sono molte cose che non avrei fatto, che ora considero avventate. Non avevo considerato attentamente gli effetti che avrebbero prodotto. Gli stessi uomini che avevo cercato di proteggere si sentirono invece colpiti da tante cose che ora non ripeterei. E pensa in quel periodo di essere stata un modello di rivoluzionaria? No. E oggi si sente più o meno idealista di allora? Credo di essere idealista almeno quanto prima. Quello che succede invece quando si è adulti è che si diventa più paziente. E non si è mai sentita prigioniera di un mito in qualche modo in quel periodo? Non mi sono mai sentita prigioniera di qualcuno. Ho commesso da sola i miei sbagli. No. Prigioniera di un mito o no, comunque lei ha sbalordito il mondo quando è riapparsa sulla scena come la dea della salute e del benessere fisico. Non c'era una contraddizione fra quella eroina e questa dea della salute? Ma forse non ho capito, ma non credo che vi sia una contraddizione. Mi piace mangiare e quando intrapresi la carriera di attrice per evitare di ingrassare, dovetti cominciare a fare ginnastica. Avevo 21 anni e da 21 anni faccio regolarmente esercizio fisico. Poi è arrivato il momento in cui ho cercato qualcosa da fare al di fuori del mondo cinematografico. L'unica cosa che conoscevo era la ginnastica e così inaugurai la mia palestra. Non avrei mai pensato che sarebbe diventato quello che è ora. Così qualcuno mi propose di scrivere anche un libro. Qualcuno che non le vuol bene ha detto che in tutto questo business della salute c'è il versante femminile del rambismo. Lei cosa risponde? Ma sono pazzi! Rambo usa le pistole, uccide le persone, mi propone la storia americana, mentre io